Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Una breve, tranquilla riflessione bastò per chiarire ad Emma la natura della propria agitazione all'udir la notizia della partenza di Frank Churchill. Ben presto si convinse che non per se stessa si sentiva in apprensione o a disagio, ma per lui. Il suo attaccamento si era proprio ridotto a nulla, non metteva conto di pensarci. Ma se lui, che fra i due era sempre stato di gran lunga il più innamorato, fosse dovuto tornare con lo stesso ardore di sentimenti col quale era partito, il guaio sarebbe stato molto serio. Se una separazione di 2 mesi non gli aveva fatto passare i bollori, pericoli e malanni la attendevano. Cautela per lui e per lei si imponeva. Non aveva nessuna intenzione di lasciar coinvolgere ancora i propri affetti, e sarebbe stato suo dovere di evitare ogni incoraggiamento a Frank. Si augurava di riuscire a trattenerlo da dichiarazioni impegnative, conclusione quanto mai penosa della presente amicizia. E tuttavia Emma non poteva fare a meno di augurarsi qualcosa di decisivo. Era come se la primavera non dovesse passare senza produrre una crisi, un avvenimento, qualcosa che modificasse il suo tranquillo stato di equilibrio. Non passò molto, più tuttavia di quanto avesse previsto il signor Weston, che gli si offrì la possibilità di farsi un'idea dei sentimenti di Frank Churchill. La famiglia di Enscombe non arrivò a Londra così presto come ci si era figurati, ma Frank arrivò ad Highbury quasi subito dopo. Fece a cavallo una scappata di un paio d'ore. Non poteva permettersi di più per il momento. Ma poiché da Randalls venne subito ad Harfield, Emma poté esercitare tutto il suo spirito di rapida osservazione e stabilire in un battibaleno in che stato d'animo fosse e come lei dovesse agire. Si incontrarono con la massima cordialità e che provasse gran piacere a rivederla non poteva esserci dubbio. Ma un dubbio quasi fulmineo prese Emma che non si curasse di lei come un tempo, che non provasse nella stessa misura la stessa tenerezza. L'osservò attentamente. Appariva chiaro che era meno innamorato. La lontananza, probabilmente unita alla convinzione della sua indifferenza, aveva prodotto quell'effetto molto naturale e molto salutare. Era in gran forma, pronto come sempre a parlare e ridere. Sembrava felice di parlare della precedente visita e di rievocare vecchie storie, e non era senza agitazione. Non nella sua calma Emma poté leggere un relativo cambiamento. Non era calmo. Evidentemente stava sulle spine. C'era intorno a lui un'atmosfera irrequieta. Era vivace, ma di una vivacità che non sembrava appagarlo. Ma quello che decise l'opinione di Emma su di lui fu il suo trattenersi solo un quarto d'ora e scappar via per altre visite ad Highbury. Passando, disse, aveva visto un gruppo di vecchie conoscenze, ma non si era fermato. Non si era voluto fermare che per scambiare 4 parole. Però aveva la vanità di credere che se non li andava a trovare ne sarebbero rimasti delusi e per quanto desideroso di trattenersi di più ad Harfield doveva proprio scappare. Che fosse meno innamorato Emma non dubitava. Ma né il suo stato d'animo irrequieto né la sua fuga precipitosa davano l'impressione di una perfetta guarigione. Ed Emma era incline a pensare che in tutto ciò vi fosse paura del ritorno del suo potere e una cauta decisione di non fidarsi e girarle molto attorno. Fu quella la sola visita di Frank Churchill in 10 giorni. Sperava e si proponeva spesso di venire, ma c'era sempre qualcosa a impedirlo. La zia non poteva ammettere che la lasciasse. Ben presto risultò che Londra non era il posto adatto per lei. Non poteva sopportare il frastuono. I suoi nervi erano sottoposti a una continua irritazione e sofferenza, e alla fine del 10° giorno una lettera di suo nipote a Randalls annunciò un cambiamento di programma. Si sarebbero immediatamente trasferiti a Richmond. La signora Churchill era stata raccomandata alla perizia medica di un'eminente personalità del luogo, e a parte ciò, Richmond le andava a genio. Era stata presa una casa mobiliata e notevole beneficio si attendeva dal cambiamento. Emma seppe che di questa sistemazione Frank scriveva con entusiasmo e sembrava apprezzare immensamente il vantaggio di 2 mesi di grande vicinanza a molti amici cari, giacché la casa era affittata per maggio e giugno. Le fu detto che scriveva con la massima fiducia di trascorrere con loro quasi tutto il tempo che poteva desiderare. Una cosa divenne immediata certezza in seguito a questo trasferimento: il ballo alla corona. Non che prima lo si fosse dimenticato, ma si era presto riconosciuto come fosse inutile cercar di stabilire un giorno. Ora, invece, doveva assolutamente aver luogo. Si ripresero i preparativi e, poco dopo che i Churchill si erano trasferiti a Richmond, 4 righe di Frank, annuncianti che la zia si sentiva molto meglio per affrontare il viaggio e che egli era certissimo di poter passare 24 ore a Randalls in qualunque momento, li indussero a fissare un giorno il più possibile vicino. Il ballo del signor Weston doveva trasformarsi in realtà. Pochissimi domani separavano la gioventù di Highbury dalla felicità. Nessun contrattempo si ripresentò a impedire il ballo. Il giorno si avvicinò, il giorno venne, e dopo una mattina di attese un po' inquieta, Frank Churchill, in tutta la certezza della propria identità personale, arrivò a Randalls prima di pranzo, e ogni cosa fu a posto. Un secondo incontro fra lui ed Emma non c'era stato, e testimone doveva essere nella sala della corona, meglio di uno dei soliti incontri in pubblico. Frank le stava accanto, ma non continuamente. C'era in lui un'irrequietezza che tradiva un'anima in pena. Si guardava intorno, si affacciava alla porta, tendeva l'orecchio al rumore di altre carrozze, impaziente di cominciare o timoroso di esserle sempre vicino. Si parlò di Mrs. Elton. «Credo che non tarderà», disse. «Sono molto curioso di vedere Mrs. Elton. Ne ho tanto sentito parlare. Sarà qui a minuti, penso». Si udì una carrozza. Egli si mise immediatamente in moto, ma tornando indietro disse: «Dimenticavo che non la conosco. Non ho mai visto né il signore né la signora Elton, e non c'è ragione che mi faccia avanti». Il reverendo Elton e consorte apparvero, e sorrisi e cortesie fecero il giro. Miss Bates e Miss Fairfax, scortate da 2 signori, fecero il loro ingresso in sala, e la signora Elton parve ritenere dover suo, non meno che della signora Weston, riceverle. I suoi gesti e movimenti li avrebbe potuti capire chiunque tenesse gli occhi aperti come Emma, ma le sue parole, le parole di ciascuno, non tardarono a perdersi sotto il fuoco di fila incessante di Miss Bates, che entrò parlando e non aveva ancora finito di parlare molti minuti dopo essere stata ammessa nel semicerchio accanto al fuoco. Frank Churchill tornò al suo posto accanto ad Emma, e appena calmatasi Miss Bates, Emma non poté non ascoltare la conversazione che si svolgeva fra Mrs. Elton e Miss Fairfax, un po' dietro le sue spalle. Frank era soprapensiero, ed Emma non poté stabilire se ascoltava anche lui. Evidentemente, dopo molti complimenti a Jane e al suo vestito e al suo bell'aspetto, complimenti accolti con molta calma e riserbo, la signora Elton desiderava riceverne a sua volta, e ci fu un «Le piace il mio vestito? Come trova le mie guarnizioni? Come mi ha acconciata Wright?» con altre questioni connesse alle quali fu risposto con paziente cortesia. Poi Mrs. Elton disse: «Non c'è nessuno che meno di me pensi ai vestiti in generale, ma in un'occasione come questa, che tutti gli occhi mi sono addosso, e in omaggio ai Weston, che non ne dubito, danno questo ballo soprattutto in onor mio, non vorrei per nulla al mondo essere da meno delle altre. Vedo pochissime perle qui intorno, oltre alle mie. Così Frank Churchill è un ballerino di gran classe, a quanto sento. Vedremo se i nostri stili si accordano. Certo, un gran bel giovanotto lo è, Frank Churchill. Mi piace moltissimo». A questo punto, Frank cominciò a parlare tanto a precipizio che Emma dovette supporre che avesse ascoltato l'elogio e non desiderasse sentir altro. E le voci delle signore furono per un po' sommerse, finché un'altra sospensione diede nuovo risalto alla voce della signora Elton. Le si era appena avvicinato suo marito ed esclamava: «Oh, ci hai finalmente trovate nel nostro rifugio. Stavo appunto dicendo a Jane che avresti cominciato ad essere impaziente di rivederci. Jane, ripeté Frank Churchill in tono di sorpresa e disappunto. Una bella faccia tosta. Ma Miss Fairfax non la disapprova. Suppongo le piace la signora Elton? Domandò sottovoce Emma. Affatto. Lei è ingrato. Ingrato? Che cosa vorrebbe dire? Poi, cambiando il cipiglio in sorriso, no, non me lo spieghi. Non desidero sapere che cosa vorrebbe dire. Dov'è mio padre? Quando si comincia a ballare? Il ballo procedeva allegramente. Le cure ansiose, le incessanti premure della signora Weston non erano state vane. Ognuno sembrava soddisfatto. E fin dall'inizio il ballo riscosse gli elogi che di rado si tributano prima che sia cessato. Un ballo delizioso. Emma aveva il cuore in fiamme e temeva che non meno le ardesse la faccia. Uno spettacolo lieto la colpì. Mr. Knightley guidava Harriet al ballo. Mai era stata più sorpresa e raramente più felice. Era tutta gioia e gratitudine sia per Harriet che per sé. E avrebbe voluto ringraziarlo, e sebbene troppo lontana per parlare, appena i suoi occhi poterono incontrarsi con quelli di lui, la sua espressione disse molte cose. Il suo modo di ballare si dimostrava esattamente quello che Emma aveva sempre creduto, eccellente, e Harriet sarebbe parsa fin troppo fortunata, e per l'esultanza e il vivo senso della distinzione accordatele che il volto felice annunciava. Non fu una distinzione sprecata con lei. Raggiava, volava, era tutta sorrisi. Il reverendo Elton si era rifugiato nella saletta da gioco con un'aria, sperava Emma, molto impacciata e debete. Non lo credeva indurito quanto sua moglie, sebbene andasse sempre più assomigliandole. Quanto a lei, espresse alcuni dei suoi sentimenti osservando al proprio cavaliere, in modo che la si poteva sentire. Knightley si è preso compassione della povera piccola Smith, un cuor d'oro in verità. Fu annunciata la cena. Emma non trovò modo di parlare a Mr. Knightley prima che la cena finisse, ma quando si ritrovarono tutti nella sala da ballo, i suoi occhi lo invitarono in modo irresistibile a ricevere i suoi ringraziamenti. Egli fu molto duro nel riprovare il contegno del reverendo Elton. Era stata un'imperdonabile scortesia. E anche gli sguardi di Mrs. Elton ricevettero la debita parte di censura. «Miravano a qualcosa di più che a offendere Harriet», disse. «Perché sono suoi nemici, Emma?» La guardava con sorridente penetrazione e, non ricevendo risposta, aggiunse «Lei non dovrebbe avercela, penso, checché ne pensi il marito». A questa insinuazione non risponderà nulla, naturalmente, ma confessi, Emma, che desiderava vederlo sposare Harriet. «Sì», rispose Emma, «e non me lo posso perdonare». Egli scrollò la testa, ma c'era insieme un sorriso di indulgenza e si limitò a dire «Non la sgriderò, la lascio alle sue meditazioni». «Può fidarmi a simili adulatrici?» Quando mai il mio spirito vanitoso mi avverte che sbaglio? Il suo spirito vanitoso no, ma il suo spirito serio sì. Se uno la induce in errore, son certo che l'altro la mette in guardia. Riconosco di essermi completamente sbagliata nel caso del reverendo Elton. C'è in lui una meschinità che lei ha scoperto e io no. Ed ero arciconvinta che fosse innamorato di Harriet. È stata tutta una serie di bizzarri equivoci. E in cambio del riconoscimento di tutto questo, le renderò giustizia affermando che avrebbe scelto per conto suo meglio di quanto abbia scelto da sé. Harriet Smith ha qualità di primo ordine di cui Mrs. Elton è totalmente priva. Una ragazza senza pretese, semplice, spontanea, da preferirsi mille volte a una donna come la signora Elton, per un uomo di criterio e di buon gusto. Ho trovato Harriet più spigliata nella conversazione di quanto immaginassi. Emma si sentì molto lusingata. Le interruppe il baccano con cui il signor Weston invitava a riprendere il ballo. «Su via, Miss Woodhouse, Miss Otway, Miss Fairfax, che cosa state facendo? Avanti, Emma, dia il buon esempio. Tutti pigri, tutti assonnati. Sono pronta, disse Emma, in qualunque momento mi si chieda. Con chi balla? Domandò Mr. Knightley. Lei esitò un momento, poi rispose. Con lei, se è così gentile da invitarmi. Vuole? Domandò lui offrendole la mano. Certo che voglio. Lei ha mostrato di saper ballare e sa benissimo che non siamo tanto fratello e sorella da rendere la cosa sconveniente. Fratello e sorella? No, davvero. Questa piccola spiegazione con Mr. Knightley fece a Emma un notevole piacere. Fu uno dei ricordi graditi del ballo e per goderlo l'indomani uscì a passeggio nel podere. Era felice che avessero raggiunto un accordo così completo nei riguardi degli Elton e che le loro idee sui due coniugi fossero così affini. Ma particolarmente gradito le era il suo elogio di Harriet, la sua condiscendenza nel giudicarla. Non doveva vedere Frank Churchill quel mattino. Le aveva detto che non poteva concedersi la gioia di una fermata ad Harfield perché lo attendevano a casa sul mezzodì. Emma non se ne rammaricò. Allineate, soppesate e sistemate tutte queste questioni, stava tornando a casa con lo spirito rinfrancato per soddisfare le esigenze dei due ragazzi e del loro nonno, quando il gran cancello di ferro si aprì ed entrarono due persone che Emma non si sarebbe mai aspettata di vedere insieme. Frank Churchill con Harriet appoggiata al braccio. Harriet in persona! Un attimo bastò per convincerla che era successo qualcosa di straordinario. Harriet appariva smorta e atterrita, e lui cercava di farle animo. Il cancello di ferro e la porta di casa non erano a più di 20 metri. Presto furono tutti e tre nell'atrio e Harriet, abbandonandosi immediatamente su una sedia, cadde in deliquio. Una signorina che sviene va fatta rinvenire, vanno poste domande e chiarite sorprese. Tutto ciò è interessante, ma la sospensione non può durare a lungo. Pochi minuti misero Emma a conoscenza dei fatti. Miss Smith e Miss Bickerton, un'altra convittrice della signora Goddard, che era pure stata al ballo, erano uscite insieme a passeggio e avevano preso una strada, quella di Richmond, che, sebbene apparentemente frequentata a quanto bastava per sentircisi al sicuro, le aveva condotte al panico, circa mezzo miglio oltre Highbury, svoltando bruscamente e proseguendo all'ombra densa di due file d'olmi. La strada diveniva per un buon tratto molto appartata e, spintesi un po' innanzi, le due signorine avevano improvvisamente scorto a breve distanza davanti a sé una comitiva di zingari su un più largo spiazzo erboso. Un bambino che montava la guardia venne loro incontro a chiederle l'elemosina. Miss Bickerton, terribilmente spaventata, uscì in un grande urlo e, gridando ad Harriet di seguirla, si arrampicò su una ripida proda, scavalcò una siepe che la coronava e per una scorciatoia raggiunse alla meglio Highbury. La povera Harriet non poté seguirla. Dopo il ballo aveva molto sofferto di crampi e il primo tentativo di salire sulla proda ne aveva causato un così violento ritorno da toglierle completamente le forze. E in questo stato, tremante di paura, s'era dovuta fermare. Come i vagabondi si sarebbero comportati se le giovani donne fossero state più coraggiose, rimane incerto. Ma a un simile invito all'assalto era impossibile resistere, e Harriet fu ben presto assalita da una mezza dozzina di ragazzi, guidati da un pezzo di donna e da un giovinastro, tutti chiassosi e nell'aspetto, se non nelle parole, ribaldi. Sempre più sgomenta, Harriet si affrettò a promettere danaro e, tirata fuori la borsa, diede loro uno scellino e li pregò di non chiedere altro e di non farle male. Frattanto le gambe avevano ricominciato a funzionare, sebbene a fatica, e stava già allontanandosi, ma il suo terrore e la sua borsa erano troppo allettanti e fu seguita, o meglio, circondata dall'intera squadra che chiedeva di più. In queste condizioni l'aveva trovata Frank Churchill, lei tremante e implorante, loro chiassosi e insolenti. Un'avventura simile, un bel giovane e una leggiadra donzella incontratisi in quel modo, non poteva mancare di suggerire certe idee anche al cuore più freddo e al cervello più saldo. Così, almeno, Emma pensò. Avrebbe potuto un linguista, avrebbe potuto un grammatico, avrebbe potuto perfino un matematico vedere quello che aveva visto lei, assistere alla loro comparsa a braccetto e sentirne la storia, senza presumere che il destino avesse lavorato a renderli particolarmente interessanti l'uno all'altra? Quanto più doveva una fantasticatrice come lei accendersi di speculazioni e pronostici, soprattutto dopo il lavorio di congetture che in segreto la sua mente aveva già svolto? Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.